con tante qualità, ma anche con qualche risvolto criminale. E quindi dal punto di vista oggi saremmo in un certo senso più autorizzati, però dal punto di vista prettamente storico oggi ripetiamo esattamente a 100 anni di distanza la stessa aggressione di prima. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, starrt sie ne Laterne und steht sie noch davor. Protagoniste loro malgrado delle guerre sono le donne. Sul ruolo delle donne in guerra parlerà domenica 17 aprile Anna Bravo, docente di storia sociale all'Università di Torino. Questo è difficile da generalizzare, perché si può subito dire quali donne e quali guerre, perché il tipo di guerra è molto cambiato, in particolare a partire dal secolo scorso. E le donne sono diverse fra loro e quindi hanno ruoli, caratteristiche, reazioni diverse. Per esempio, una cosa è la prima guerra mondiale, dove c'è una guerra a fronti fissi con le trincee, e una cosa è la seconda, dove c'è l'occupazione nazista in Europa, e quindi il fronte, come si usa dire, è sulla porta di casa, e quindi le donne sono molto più esposte. Nella seconda guerra una donna può trovarsi il fronte sulla porta di casa in senso letterale, sparatorie, rastrellamenti, eccetera. Poi donne che possono essere diverse, sia per posizioni politiche, e questo conta, sia per la loro posizione anagrafica, sia per l'età, per una serie di motivi, è molto difficile generalizzare. Altre vittime della guerra, i bambini. Sabato 16 aprile, alla Storia in Piazza, un incontro su come i bambini vissero la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Yuri Meda, docente di storia della scuola all'Università di Macerata. Logicamente la vissero in modi molto diversificati a seconda di come la Seconda Guerra Mondiale entrò poi all'interno delle loro vite. Ci sono testimonianze di bambini colpiti direttamente dalla tragedia vera della guerra, che continuarono a portare per anni poi nelle loro carni e anche nella loro mente, nella loro psiche, i danni che la guerra aveva prodotto su di essi. E per esempio penso ai bambini appunto vittime di bombardamenti, oppure ai figli delle vittime delle stragi e degli eccidi nazifascisti. E dall'altro canto però è anche vero, e bisogna ricordare, che quei bambini che ebbero la fortuna di vivere la guerra solo marginalmente, di esserne toccati a latere in qualche modo, quindi vedendosi solamente sfiorare da quella che era questa immane tragedia, hanno conservato, perché alcuni di questi bambini sono poi nonni di adesso, hanno conservato della guerra un ricordo paradossalmente, lo dico perché può sembrare paradossale, non voglio dire bello, comunque molto più edulcorato di quello che non ci si potrebbe aspettare. Per esempio, una cosa che mi ha molto colpito è stata quella di scoprire da alcune testimonianze, che sono state anche poi riportate all'interno di alcuni volumi usciti nel corso degli anni, come i bambini vedessero come un gigantesco gioco pirotecnico i grandi bombardamenti che sconvolsero le città italiane durante la Seconda Guerra Mondiale, oppure come per esempio i bambini andassero a caccia dei proiettili inesplosi che cadevano dagli aerei, molto spesso dai bombardieri alleati, per utilizzarli per giocare, per estrarre la polvere pirica da poi utilizzare per fare alcuni giochi pericolosissimi. Si parla di guerra anche attraverso il cinema. Sabato 16 aprile l'incontro Il cinema fa la guerra. Ne parlerà Claudio Gifava, critico cinematografico e autore di Guerra in 100 film. La guerra è dunque un buon soggetto per un film? Sentiamo Claudio Gifava. È un buon soggetto, ma al tempo stesso un terribile soggetto, perché la grande difficoltà del cinema in questo caso è quello di restituire completamente la complessità, la violenza, la ferocia, la crudeltà che sono impliciti in una guerra, e ecco perché tanto cinema di guerra è mediocre, proprio perché per questa impossibilità di raggiungere quel senso di paura che domina la gente in guerra, e di ricostruirlo nel volto degli attori e nelle situazioni. C'è stato un periodo in cui era più di moda fare film di guerra? Sì, ci sono stati periodi in cui forse c'erano più film di guerra, nel senso che per esempio immediatamente dopo la fine di un conflitto il desiderio di ricostruire in parte quello che è successo è più forte, però la tentazione del cinema di guerra c'è sempre stata, anche se è, come dire, è disordinata nella storia del cinema. Possiamo fare l'esempio di qualche film di guerra particolarmente riuscito? Sono molti, insomma, diciamo. Io ho qua l'indice del mio libro, diciamo All'Ovest di nuovo di Milestone del 30, dal romanzo di Remarque, La grande illusione di Renoir, che è forse il film che amo di più al mondo, I migliori anni della nostra vita di Wyler, Paesà di Rossellini, Bastogne di Wellman, Cielo di fuoco di Henry King, e sono arrivato solo nel 1953. Prima di arrivare ai giorni nostri ci sono ancora molti titoli. I film sono molti e alcuni sono belli. Il problema fondamentale è la difficoltà di ricreare un avvenimento per sua natura terribile e irraccontabile come la guerra. Infine segnaliamo due mostre presenti alla Storia in Piazza, quella di Tom Porta con i dipinti che rappresentano per esempio i kamikaze giapponesi e quella delle foto di Robert Capa, uno dei più famosi fotografi di guerra. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera. La Storia e la Memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.